A bordo campo di Dario Ricci. Grandi campioni capaci di conquistare le vette più alte del mondo o gli abissi più profondi, oppure di dominare nuotando, correndo e andando in bicicletta. Beh, questi campioni che oggi saranno protagonisti qui a bordo campo, cosa hanno da insegnare a noi che magari tutti i giorni affrontiamo sfide magari meno esaltanti ma non meno impegnative nelle nostre aziende? È proprio questo il legame che oggi a bordo campo vogliamo indagare grazie ad alcuni grandi campioni: l'alpinista Daniele Nardi, l'apneista Ilaria Molinari e poi Alessandro Fabian, il pluricampione italiano di triathlon. Beh, sentiamo com'è andata. Oggi a bordo campo è in trasferta, in realtà vicino alla nostra sede qui a Milano, perché siamo in fiera a Milano per un'occasione particolare. Expo Training, cos'è? Di fatto è la fiera della formazione aziendale. Cosa c'entra lo sport? Beh, sfide estreme nello sport, sfide estreme in azienda. E due campioni dello sport estremo sono oggi allora nostri ospiti proprio per parlare di questo parallelismo che unisce aziende e grandi sfide dello sport. Beh, uno lo conoscete davvero da vicino perché è un grande amico di Radio 24 e di A Bordo Campo, Daniele Nardi, pronto per la sua nuova spedizione sul Nanga Parbat. Già ha in curriculum ben 5-8 mila. Manca questo Nanga Parbat da conquistare in inverno e sarebbe la prima volta nella storia. Ben ritrovato, Daniele. Ben ritrovati a voi e ben ritrovato a te, Dario. Beh, allora, dalle altezze degli 8.000 andiamo invece nelle profondità degli abissi con Ilaria Molinari, campionessa, pluricampionessa italiana di apnea, che anche giù nelle profondità del mare trova parecchie sfide da affrontare e da vincere, Ilaria. Ciao a tutti, sì, questa fiera mi ha dato l'occasione di mettere a fuoco ancora di più quelle che sono le profondità e gli imprevisti di tutte le situazioni. Beh, allora, alti e bassi nelle sfide estreme, alti e bassi in quelle che sono le più modeste sfide che ogni giorno affrontiamo sul lavoro. Parallelismo, che è un po' il pane quotidiano del professor Giuliano Caggiano, psicologo del lavoro, docente di psicologia del lavoro all'Università dell'Aquila. Beh, professore, intanto avere due allievi, ma anche due testimonial di questo tipo è un bel vantaggio, no? Molto molto bello, e devo dire che è un piacere stare con loro, è un piacere averti anche qui con noi. Che dire, nel senso, loro mi fanno fare, tu hai parlato di parallelismo, in realtà io attraverso loro veramente capisco le cose che non capisco quando sono in un'aula di formazione, che c'è questa difficoltà nell'applicare dei contenuti di formazione di qualsiasi tipo, la leadership, il lavoro di gruppo, il prendere decisioni. In realtà noi ne parliamo tanto in aula, i partecipanti dicono: ma come si applica questo? Beh, stare con loro io ho capito che attraverso tutta una serie di caratteristiche che loro hanno si possono applicare dei concetti, dei contenuti che possono sembrare teorici, ma poi in teorici non sono, perché alcune persone li provano ad applicare. La riflessione è capire perché spesso in azienda non si riescono ad applicare cose che invece persone che stanno in contesti molto estremi, secondo me l'azienda è un contesto estremo, loro riescono comunque ad applicare. Senti, Daniele, per l'esperienza che stai facendo qui sul campo, più pericoloso affrontare certi colleghi in azienda o il Nanga Parbat d'inverno? Dario, il nostro motto ormai è in vetta al mondo, quindi in vetta deve essere sia all'interno delle aziende ma anche sulle grandi montagne. Questo è il tema che cerco di affrontare. Io quello che ho scoperto è che quando ci si lega una corda fra due persone in montagna si crea un legame di fiducia e di attività e di corresponsabilizzazione rispetto alla scalata, che è un'analogia, una metafora bellissima da riportare all'interno dell'azienda. E idem vale per quando poi si va in profondità. Tu sai perfettamente che Ilaria è stata mia istruttrice di un corso di apnea che mi ha aiutato comunque anche mentalmente ad affrontare rischi ed emozioni diverse nel controllo e nella gestione che poi riporto in montagna. Questo trio che si è creato è forte, mi piace perché è entusiasmante, mi fa provare nuove emozioni e consapevolizzare alcune cose. Giuliano Caggiano in questo sistema riesce a portare a terra quello che noi facciamo nello sport. Ilaria, ho visto un video in cui tu, immergendoti, hai un incontro ravvicinato del terzo tipo, addirittura con uno squalo. Ecco, io mi sono agitato al solo vederlo nelle immagini. Come si fa a mantenere l'autocontrollo in quelle occasioni e magari anche quando al lavoro o in azienda non tutto fila per il verso giusto come previsto? Sì, quello è il mio cavallo di battaglia, me lo sparo in tutte le grandi occasioni, lo squalo. E, come diceva Daniele, si è creato questo trio in modo molto spontaneo, quindi anche l'energia che sprigioniamo insieme, secondo me, viene percepita. E, l'autocontrollo io ritengo di avercelo un po' per natura, anzi ne avevo anche troppo, quindi l'ho un po' limato negli anni. E grazie anche all'incontro con Giuliano e Daniele ho capito, ho messo a fuoco meglio quelle che sono le tecniche per poterlo aumentare o comunque apprendere. E ci sono diversi metodi. Io applico la respirazione, il rilassamento, la preparazione attraverso l'allenamento, quindi ci si può lavorare, non è una causa persa. Quindi se si è una persona che tende a persone che tendono a perdere subito il controllo, in realtà ci si può far qualcosa. E si può fare anche qualcosa, come giustamente sottolineavi, se invece si è un po' troppo controllati, quindi magari si rischia di essere troppo remissivi, troppo passivi, poco propositivi, no? Certo, anche quello è un problema perché ci si frena o comunque si rischia di non mettersi in gioco quando invece si potrebbe dire la propria in modo bello. Per quanto riguarda lo squalo, non era previsto e ovviamente anche per me è stata una sorpresa e lì è subentrato tutto il lavoro fatto a monte in modo automatico, quindi non è che ho pensato alla reazione, è venuta spontanea. Il fatto di rimanere calma è stata una conseguenza del lavoro fatto prima. Un'altra cosa che mi era piaciuto, il fatto che fosse capitato a me, avrei subito immaginato di uscire dall'acqua, no? Dopo questo incontro così particolare e potenzialmente pericoloso. Tu hai detto: ho preferito rimanere ancora in acqua per non uscire con quel ricordo negativo. Tante volte noi sbattiamo la porta dell'ufficio per tornare subito a casa, ma portiamo a casa quella tensione figlia di quel brutto ricordo. Anche questa è una lezioncina che magari i nostri ascoltatori si possono scrivere sul palmo di una mano, eh? È bello questo parallelismo che hai fatto perché uno delle volte tende a rendere tutto negativo se succede una cosa brutta o comunque un evento imprevisto spiacevole. Io sono rimasta in acqua in quel caso perché volevo invece portarmi un ricordo bello perché a me piaceva fare quella cosa e anche se c'è stato l'incidente non volevo che diventasse l'incidente su quella giornata, per cui sono rimasta per focalizzarmi anche su altri aspetti. E uno dovrebbe cercare di farlo stesso quando torna a casa col muso perché è successo qualcosa in ufficio. Però in realtà ci saranno anche altre cose, no, che ci fanno sorridere o ci fanno star bene relativamente al lavoro o altre situazioni. Professor Caggiano, insomma, non permettiamo agli squali d'azienda di rovinare quel legame intimo che c'è tra la passione per il nostro lavoro e la nostra soddisfazione. Anche questi campioni possono aiutarci a capire anche questi concetti. È verissimo, però questo è proprio un esempio molto concreto. Di ragionamento e parallelismo tra la metafora sportiva e quello che succede in azienda. Sarebbe bello quello che tu dici. Il problema è che in azienda gli squali ci stanno e tutti i giorni tu comunque un po' ti ci vai a scontrare. È un po' questa la riflessione. È importante capire se io li posso un po' prevenire. Ilaria su questo ci ha detto che ha fatto degli errori tecnici perché poteva non incontrarlo e questo è il tema un po' della formazione che è un mio tema all'interno della psicologia del lavoro. Significa che se mi preparo bene posso anche eventualmente non incontrare gli squali. Però poi preparandomi alcune volte lo squalo per un qualche motivo che noi chiamiamo imprevisto lo incontro e da lì subentrano tecniche che devo utilizzare all'istante e che loro utilizzano bene, per esempio il tema dell'autocontrollo. In un'ottica, per esempio, di visualizzazione positiva di una serie di cose, piuttosto che di tecniche di rilassamento, o in alcuni casi, quando io proprio entro in un'azienda, incontro uno squalo, vado in conflitto, o ci litigo, oppure gestisco quella situazione che è la gestione di un conflitto. Ecco, qual è la reazione dei vostri studenti, che spesso sono impiegati, manager, che in modo anche sorprendente per loro scoprono che lo stesso rischio che Daniele e Ilaria corrono in montagna o negli abissi è gestibile, così come quando magari allo sportello bancario ti arriva un cliente particolare o una procedura del tutto imprevista? Ecco, da questo punto di vista, che feedback ha? Il feedback va in due direttrici, una positiva e una un po' meno. Allora, quella negativa, partiamo dall'aspetto negativo. In alcuni casi, e questo lo fanno anche verso di me, persone come Daniele piuttosto che Ilaria, ti fanno venire anche un senso un po' di frustrazione, nel senso che loro fanno delle cose che tu non riesci a fare. Tant'è vero che nelle situazioni di aula o di formazione, i manager, gli studenti, i professionisti, le semplici persone che lavorano in un'azienda ti dicono: va bene, ma loro sono motivati a farlo. E questa è l'altra un po' ripercussione, tendenzialmente è pure vero questo qui, nel senso non è smentibile, quindi loro fanno queste cose perché comunque hanno passione e motivazione. Questa caratteristica non sempre in azienda è presente. Detto questo, però, comunque le persone riescono a capire che la leva motivazionale che hanno loro non la puoi al 100% riportare in azienda, ma comunque vedono in loro delle persone che fanno delle cose molto concrete, e quindi comunque il feedback è molto positivo, perché loro, in un'ottica di benchmark, di parallelismo, si ritrovano in alcuni meccanismi e alla fine se li riportano pure a casa, e quindi riportano anche in azienda. Ovviamente non saranno mai Daniele Nardi e l'Ilaria Molinari della situazione, perché è vero che la motivazione è molto forte, e in alcuni casi però ti chiedono: ok, fammi arrivare ad una motivazione tale che mi permette di fare cose estreme. Ma non tutte le popolazioni organizzative possono comunque arrivare a questi livelli, e lo dobbiamo anche capire, ed è legittimo anche questo. Ecco, Daniele Nardi, un po' d'ammirazione per un manager o un impiegato che convive con un capo particolarmente difficile da gestire, ci sarà anche per te, che pure ogni tanto te ne scappi da questi problemini a livello del mare e provi ad arrivare, spesso riuscendoci, in vetta al mondo e in vetta agli 8.000 della Terra, no? Beh sì, sicuramente la grande nostra fortuna è quella di poter vivere l'ambiente, di poter fare quello che ci piace, di poter in qualche modo lasciare che i nostri desideri si possano realizzare. Però è faticoso anche per noi la motivazione, la tenacia. Non è sempre semplice da tenerla ad alti livelli, perché finché si fa sport a livello amatoriale, sai, se salti un allenamento non è un problema. Ma quando si deve performare al limite del possibile umano e all'interno di uno sport, diventa la pressione, lo stress di dover fare il risultato, che può in qualche modo inficiare sulle nostre performance e le scalate. Quindi a volte, al contrario, no? Quando si è veramente sotto pressione, certe volte si dice: caspita, ma beato quel manager che si ritrova a fare quei 10 km per magari andare al lavoro, si trova nella sua situazione agiata, alla sua scrivania, eccetera, quando magari a 7.000 metri sei in una tendina di 2 metri quadrati con 40 gradi sotto zero e non riesci neanche a cuocerti del cibo sufficiente a sopravvivere. Quindi diciamo che questo parallelismo secondo me funziona. È chiaro che poi però, come tu ben sai che ti occupi di sport da una vita, lo sport in qualche maniera, in modo semplice, rappresenta la grande passione umana, e credo che nessun'altra cosa lo faccia bene come lo sport. Beh, allora, intanto grazie per averci aiutato ad avvicinare questi due mondi in apparenza così distanti. Grazie a Daniele Nardi, in bocca al lupo per la prossima spedizione sul Nanga Parbat, e in bocca al lupo anche a Ilaria Molinari per il prossimo tuffo. Professore, io e lei rimaniamo a bordo campo, seguiamo le evoluzioni di questi atleti, ma anche quelle dei suoi prossimi alunni, ok? Fammi un in bocca al lupo anche a me nel dover stare dentro l'azienda e l'organizzazione, che in questo momento non è così semplice. Bisogna anche comprendere, in un periodo di crisi è una formazione estrema in questo momento, e quindi fammi anche a me in bocca al lupo. Sicuramente, anzi forse fra tutti è quello che ho bisogno. Grazie per essere stati oggi ospiti a bordo campo. A bordo campo. Il signore che ho qui al mio fianco oggi a bordo campo, ricordo di averlo visto una mattina del luglio 2012 a Londra aggirarsi in canottiera dalle parti di Hyde Park. Beh, quella mattina finì particolarmente bene, perché Alessandro Fabian, campione del nostro triathlon, quel giorno conquistò alle Olimpiadi di Londra un decimo posto storico. Però insomma, di tempo ne è passato ad Alessandro da quelle Olimpiadi che sembrano l'altro ieri. Ben trovato intanto a bordo campo. Ciao ragazzi, ciao Dario. No, effettivamente devo dire che poi a Londra quel giorno c'era anche il sole, quindi non c'era la pioggia, stranamente, perché Londra... infatti, perché ne abbiamo presa tanta di acqua in quelle Olimpiadi. E infatti no, ricordo quella giornata particolarmente, anche perché, come hai detto te, è stato un risultato storico. Per noi un decimo posto non era mai arrivato nel triathlon, nella storia italiana del triathlon, quindi ci tenevamo, è arrivato questo decimo. Logico, è un decimo, non è un primo posto, però noi stiamo lavorando anche per togliere lo zero, per togliere quello zero, no? Sì, dai, però tocchiamo ferro intanto, va. Beh, intanto c'è un argento europeo, ci sono 5 titoli italiani, a sottolineare infatti, diciamo, la tua egemonia attuale nel triathlon italiano. Ma oggi non parliamo tanto del tuo curriculum, che quello altrimenti finisce la puntata. Parliamo piuttosto del triathlon, che è sport che a naso, ma anche nei dati, sta prendendo sempre più piede, o meglio, non si siete più visti solamente come gli Ironman, che lo ricordiamo, fanno nuoto 3,8 km in nuoto, 180 di bici e una maratona di corsa. Ecco, tanto per gradire, ma state diventando anche il riferimento per un certo modo di approcciare lo sport, no? Infatti, vuoi che chiediamo direttamente ai manager? sì, lo so, perché voi siete diventati anche l'incubo di molti manager aziendali, eccetera, eccetera, perché sapete, vanno ormai questi corsi motivazionali. E allora, prendi come riferimento un Alessandro Fabian, non t'alzi più dalla sedia, perché chiaramente il confronto è un po' improbo. È vero pure che invece la vostra esperienza in termini di approccio allo sport, preparazione mentale, alimentazione, sapere anche declinare le prestazioni massimali che voi fate in quella che invece è una educazione al sano approccio all'attività motoria, ecco qui che già abbiamo individuato parecchi punti di contatto, no? Certo, assolutamente, ma più che altro sai, come quello che è affine ai manager o a noi è il fatto che stiamo sempre cercando il meglio e di raggiungere il massimo, quindi un manager raggiunge il massimo nel suo campo e noi atleti vogliamo il massimo nel risultato, quindi andiamo a sviluppare l'alimentazione, andiamo a sviluppare l'allenamento, l'aspetto tecnico, l'aspetto mentale che non è da sottovalutare. E così lo fanno anche i manager, e in questo caso lo fanno attraverso lo sport. Quest'ultimo periodo, ma questi ultimi anni, è successo così perché il triathlon dà la possibilità di mettersi alla prova. Infatti l'Ironman, adesso parliamo di Ironman perché il triathlon è nato con l'Ironman, ma io mi cimento in un'altra distanza, e è nato così, è nato per una sfida con se stessi, diventa più che altro stare con se stessi e riuscire a concretizzare un qualcosa che sembra difficile, quasi impossibile, ma invece poi si vede che diventa qualcosa di concreto. Un'altra cosa che mi interessa parecchio è il fatto che tra le varie declinazioni c'è anche il triathlon per i bambini. Io non sarò un esperto, o meglio, l'idea che mi sono fatto è che questa è una disciplina che alla base, quando il bambino di 5-6 anni non sa che sport fare, la possibilità di conoscerne tre insieme, perché lo ricordiamo, nuoto, corsa e bicicletta, sia un'opportunità quasi da non perdere. Come funzionano questi triathlon per i più piccoli? Infatti si chiamano triathlon kids. Eccoli. Sì, appunto, sono questi triathlon per i bambini, ma più che altro è per approcciare all'attività sportiva, perché un bambino ha bisogno di tante esperienze, no? Questa mattina ho sentito un esempio sul fatto che un bambino approccia alla sedia come sedersi alla sedia, ed è lo stesso con lo sport. Il bambino deve approcciare con tanti sport per capire che cos'è lo sport e poi piano piano trova la sua strada. In questo caso il triathlon direi che va a pennello, perché non è un'unica disciplina, ma mette insieme tante discipline, che sono tre: il nuoto, la bici, la corsa, e permettono di fare qualcosa di diverso, qualcosa di che non si conosce, e quindi piano piano si fanno delle esperienze diverse, che poi magari non è detto che il bambino debba continuare a praticare triathlon, ma può andare all'atletica, può... Ne sceglie uno, però intanto ne ha conosciuti tre. Certo, assolutamente, ma più che altro è un bagaglio personale, questo è l'importante, è questo che voglio passare ai ragazzi, che le esperienze si fanno e si accumulano, però non dobbiamo chiuderci in quel, diciamo, in quella campana di vetro, perché siamo sicuri di quello, bisogna provare per capire. Senti, un'altra, a proposito di bagaglio, qua vedo che non è che c'è tanta ciccia, e tu, perché sei un atleta fatto e finito, ma secondo me almeno 3-4 mila calorie al giorno dovrai incamerarle per fare queste super gare. Come ti alimenti? Cosa mangi? No, beh, allora... Dacci qualche suggerimento per una dieta equilibrata, perché noi tutta quella fatica non la vogliamo fare, cioè, te lo dico subito. Mi sto autodistruggendo, no, sto scherzando, assolutamente no. Io devo dire che a parte dell'alimentazione sono seguito da dottori, da una grande azienda che è l'Enervit, che mi aiuta in questo, a mantenere un equilibrio nella parte di alimentazione, che va molto molto curata, ed effettivamente io ingerisco, scusate il termine, ma sì, intorno alle 4.000 calorie, poi ne brucio intorno alle 4.000-5.000, poi ne brucio intorno alle 3.000-4.000, dipende dalla giornata, però sì, diciamo che più comunque andiamo avanti e più la nostra benzina deve essere perfetta, perché il nostro corpo deve avere un equilibrio ottimale. A proposito di benzina, non posso non chiederti, visto lo sport estremo, tra virgolette, che affronti, anche un tuo parere sull'efficacia della lotta al doping. Siete uno degli sport spesso nell'occhio del ciclone, proprio perché vi vengono chieste prestazioni eccezionali per ottenere risultati altrettanto grandi. Credi che si stia facendo abbastanza, soprattutto a livello amatoriale? Perché se è vero che CIO vada con tutte le loro peculiarità e particolarità, stanno provando a fare di più a livello amatoriale. L'idea del Superman, in questo caso non dell'Ironman, spesso viene declinata nel peggiore dei modi. Ecco, lanciamo forse anche un messaggio in questo senso. Esattamente come hai detto te, noi atleti elite siamo controllati quotidianamente. Infatti faccio un esempio abbastanza concreto: io tutti i giorni sanno dove io mi trovo, dove possono trovarmi e fare un controllo antidoping. Quindi in questo momento è a Radio 24, esattamente. Però no, a parte questo, poi voglio solo aggiungere che una persona va a trovare una soluzione al problema con il doping, però questa è una scappatoia, non è una soluzione al problema. Quindi se una persona è intelligente, cerca di trovare soluzioni concrete che ti aiutino anche magari a crescere. Poi appunto forse il doping dilaga molto di più tra gli amatori, e questo non lo so, non lo seguo, non ho più pallida idea, però ne sento molte anche magari nei media, e questo è veramente, mi fa spezzare il cuore, perché il livello amatoriale deve vivere di sport, ma più che altro di benessere fisico e mentale. Non deve andare a trovare la performance va trovata in un atleta di alto livello. È giusto trovare performance su se stessi, però nel limite, perché poi comunque si va sempre ad esagerare, e quindi io consiglio sempre di mettere al primo posto il benessere fisico e soprattutto mentale. Insomma, questo è un consiglio da scriversi sul palmo della mano, perché arriva da un atleta d'eccezione, e però mi sembra dotato di tanto buonsenso. Non basterà questo buonsenso per arrivare a Rio 2016, nel senso, bisognerà metterci. A proposito, già calcolato quanti chilometri di nuoto, bicicletta e corsa ti separano da Rio? Calcolati no, ma a spanne posso dirti settimana, che settimana per settimana ne macinerò tanti chilometri. Infatti a settimana ne macino una trentina, nel nuoto intorno ai 350-400 in bici e intorno a un centinaio di corsa. Quindi... Ecco, mi viene in mente dal punto di vista tecnico, perché questi sono sport che vanno curati anche dal punto di vista tecnico. Qual è la disciplina in cui ti trovi meglio e quella in cui ti trovi peggio? Ecco, se guardiamo l'aspetto tecnico, probabilmente la corsa, perché ho iniziato molto tardi, a 18 anni, e quindi devo acquisire ancora quegli aspetti, quelle gestualità tecniche che mi permettono di renderlo più fluido. Mentre nel nuoto ho iniziato a 4 anni, quindi ormai sono 21 anni che nuoto, anche se comunque mi definisco sempre come un pesciolino rosso rispetto a Phelps, che è uno squalo. Insomma, io i quattro stili di nuoto, la corsetta amatoriale me la faccio, ma non me la sento ancora di sfidarti. Casomai poi mi lasci il telefono e quando perché sarò no? pronto ti faccio uno squillo. Senti Alessandro, appunto, obiettivo Rio 2016, quello a lunga scadenza, però ce ne sono certo. Altri a portata di mano, qualche titolo italiano da difendere, altri da conquistare, dar battaglia anche sui campi europei e mondiali. Insomma, calendario pieno, no? Assolutamente, abbiamo già stabilito abbastanza il calendario per la prossima stagione. Comunque ci vedrà protagonisti nel circuito di campionato del mondo e nel campionato europeo, campionati italiani, ma comunque più che altro l'anno prossimo saremo in diversi continenti, appunto per il campionato, il massimo circuito. Ci sarà da divertirsi, c'è tanta carne al fuoco. Però non dimenticare di ripassare qui a bordo campo, l'aspettiamo. Cavolo Dario, certo che ci sarò. E allora grazie intanto Alessandro Fabian per aver fatto tappa qui a Radio 24 e a bordo campo. Ti aspettiamo con un altro po' di medaglie al collo, che quello qua ci vogliono esercizi specifici, perché cominciano a pesare sempre di più. Ma io ho il corpo buono, questo lo e confermo. Anche l'anima, assolutamente. Grazie Alessandro. Grazie a voi, ciao.